ore 21 e 7 minuti di lunedì 18 giugno 2018 e questa è la prima registrazione che faccio con il Tascam dalla macchina, che non è più la 600 di cui si parla anche nella descrizione del podcast, ma una Xara Picasso. Purtroppo la 600 ci ha abbandonati e abbiamo acquistato una 500L col cambio automatico, così penso che sarà anche meno faticosa da guidare una volta superati tutti i pregiudizi su queste macchine da imbelli, su queste macchine a metà, come vengono considerate le macchine col cambio automatico. E ritorno da Roma, dove ho cominciato a frequentare gli eventi dell'estate romana. Ci sono dei locali lungo il Tevere dove è possibile ascoltare musica all'ora dell'aperitivo, anche questo mi sembra un grosso passo avanti, perché Roma è una città dove per motivi misteriosi era impossibile sentire musica dal vivo prima delle 10. Fino a poco tempo fa, adesso ci sono dei posti come il Gregory's, che sia d'inverno nella sede del club di Via Gregoriana, sia d'estate quando poi si trasferiscono sul Lungotevere, anzi in realtà proprio sulle sponde del Tevere, ci sono due sessioni, una alle 7 e mezza e un'altra più tardi alle 10. Mi sembra un'ottima cosa. E poi in generale direi che sull'estate romana quest'anno vada un po' meglio. L'anno scorso era abbastanza facile magari prendersela con la nuova amministrazione, ma la verità è che sono arrivati in corsa proprio a ridosso dell'estate romana, i bandi furono assegnati all'ultimo secondo e ci furono situazioni abbastanza incresciose, mentre quest'anno è ripartito più o meno tutto. Il jazz alla Casa del Jazz, naturalmente lungo le rive del Tevere c'è la postazione del Gregory's, sempre per rimanere nel jazz naturalmente. Poi c'è questo spazio a Villa Celimontana, che magari non sarà ai livelli di quando Villa Celimontana era organizzato dall'Alexanderplatz, ma è sempre una serata molto piacevole e un programma accettabile. Tenete presente che i concerti sono gratuiti e si paga solo la consumazione. E poi, in tutta risposta ai ragazzi del cinema America, in risposta alla negazione dello spazio di Piazza San Cosimato, hanno moltiplicato la loro offerta. Ci sono ben 4 arene, credo che adesso 4 o 3, non ricordo bene, che proiettano film all'aperto per tutta l'estate, sia nella zona di Trastevere ma anche in periferia, e mi sembra anche questo un passo avanti importante. E poi ci sono comunque rassegne musicali, anche culturali, che durano, il Festival delle Letterature per citarne uno, a Massenzio, ma insomma è veramente lungo l'elenco delle cose che succedono e mi sembra che si possa dire che abbiamo messo alle spalle il momento più buio che è rappresentato, almeno quella che è la mia memoria, l'amministrazione Alemanno. Io ricordo che ci fu un'estate in cui veramente non succedeva nulla e vagavo disperato per la città alla ricerca di qualcosa. Ricordo che quell'estate a salvarmi intervenne il Teatro Valle Occupato. Ricordo la notte di San Lorenzo in particolare, si entrava da un ingresso secondario e il pubblico si ritrovò a sdraiarsi sul palco perché lo spettacolo accadeva in platea e durò tutta la notte veramente con tantissimi artisti e fu un'esperienza irripetibile. Speriamo che anche questo spazio venga in qualche modo recuperato alla città, al di là di tutti i problemi che potete facilmente immaginare. E poi ci sono i mondiali di calcio. È vero che l'Italia non c'è, però forse è l'occasione anche per liberarsi dal peso e dall'ansia del tifo per la nazionale, visto che a Roma ci sono comunità molto numerose di stranieri che si ritrovano per esempio nelle tante accademie e nei tanti circoli culturali dei rispettivi paesi. Ebbene, tutti si sono organizzati per permettere la visione delle partite. Per esempio, sono stato al Centro Russo di Scienza e di Cultura, come dicevo nello scorso episodio di Pendo Deliri, ad assistere alla partita della Russia. Poi mi sono infilato invece ieri in un pub molto frequentato da tedeschi per vedere Germania-Messico, finita molto male per la Germania, salvo scoprire che il pub era pieno anche di messicani. Ecco, questa è una cosa che devo dire è molto più facile che si possa fare a Roma piuttosto che in qualsiasi altra città italiana, perché ci sono tra turisti ma anche comunità che vivono a Roma continuamente, incontrare persone di ogni parte del mondo, ma veramente ogni parte del mondo, non solo del mondo diciamo civilizzato, no? Per usare un termine detestabile che sentiamo purtroppo sempre più spesso in quest'epoca abbastanza buia della nostra politica. Però insomma c'è gente veramente di ogni parte del mondo, e se c'è una partita ti infili in un pub e troverai comunque i tifosi di entrambe le nazioni. E poi ci sono queste accademie che, attenzione, stanno facendo tantissime cose durante l'anno. Viene in mente Villa Medici, il programma con tutti gli artisti residenti, per esempio l'esplorazione sulla musica elettronica. Fanno cose davvero avanzate, non sono l'accademia paludata che fa solo musica classica, come un po' succede per esempio al centro culturale dell'ambasciata del Belgio, o anche al forum austriaco di cultura, o anche all'istituto svizzero. Ecco, molto apprezzabili le cose che succedono là, però non sono molto avanzate, mentre Villa Medici fa cose davvero molto carina, tra l'altro in una sede, in un posto pazzesco che è questo spazio all'interno di Villa Borghese sopra Trinità dei Monti, uno dei punti più belli di Roma, ma direi non solo di Roma. Si potrebbe andare avanti all'infinito, e quasi tutte si metteranno in funzione in occasione della Festa della Musica, che è il 21 giugno, un po' in tutte le grandi città del mondo. Leggevo su Facebook ironizzare sul fatto che gli artisti sono lasciati molto soli e che soprattutto vengono invitati anche gli artisti dilettanti, come se fosse un tratto distintivo, diciamo, di quest'ultima amministrazione. La verità è che se andate a leggervi le regole internazionali della Festa della Musica, in realtà nasce così anche a Parigi. Se andate sul sito della Festa della Musica a Parigi, le regole sono le stesse. L'unica differenza è che siccome a Parigi la SIAE locale, che si chiama SACEM, è anche sponsor, in realtà non ti chiedono, diciamo così, di pagare i diritti, mentre in Italia, anche se a tariffe agevolate, la SIAE fa pagare i diritti anche per le esibizioni più piccole, accessibili per carità, però la procedura è abbastanza odiosa. Del resto la SIAE da statuto deve chiedere per forza i diritti, e questo forse è un po' un disincentivo. Però, mettendo da parte questi particolari, in realtà lo spirito della Festa della Musica è proprio quello. Capisco che sia facile adesso fare questa associazione tra l'amministrazione capitolina e il dilettantismo. Sono dei dilettanti, anche secondo me, dal punto di vista politico, di come si amministra una città, per carità, e infatti non li ho votati, mai mi sognerò di votarli. Però vorrei per un attimo staccarmi dal racconto popolare, dal racconto che ti permette di ottenere tanti like sui social, anche a costo di dire qualcosa di impopolare. Dico qualcosa di bello che succede a Roma, ecco, e l'estate romana c'è. Poi potremmo anche passare tutta l'estate a dire quanto fa schifo, quanto c'è la spazzatura in giro, quanto i giardini non sono curati, eccetera, però intanto c'è, e secondo me vale la pena riviverla, perché può succedere solo a Roma una cosa così, vivere davvero la città come una piazza in mezzo a gente di ogni parte del mondo e sentire musica, guardare un film. insomma l'ha inventata Nicolini, e non possiamo seppellirla con una risata, ecco, di scherno, di dileggio, peggio ancora se è un dileggio che serve alla strumentalizzazione politica.